Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Al quadrifoglio parliamo oggi di Europa, o meglio di Unione Europea, perché è da Bruxelles che passa la gran parte dei provvedimenti in tema di agricoltura e di ambiente che poi vengono adottati dai governi degli Stati membri. E dall'Europa arrivano anche gran parte delle risorse per l'attuazione di politiche in questi settori, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo. Ne parliamo quindi oggi con il nostro ospite Renzo Micheletto, responsabile dello sportello Europe Direct, un servizio promosso dalla stessa Unione Europea per spiegare ai cittadini e alle imprese, comprese quelle agricole e quelle rurali, quali sono le ripercussioni delle politiche europee a livello locale. Intanto benvenuto Renzo. Grazie, buongiorno a tutti, un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, la prima domanda subito è: che cos'è esattamente questo sportello? Lo sportello Europe Direct Veneto fa parte di una rete omonima, appunto Europe Direct, che fa capo alla Commissione Europea. Quindi la Commissione Europea, proprio per facilitare il trasferimento dell'informazione da Bruxelles verso le regioni degli Stati membri, ha creato una rete di sportelli, di centri, appunto di Europe Direct, che hanno proprio il compito, quello di, come dire, di avvicinare i cittadini all'Europa attraverso tutta una serie di azioni di informazione e di animazione. Lo sportello Europe Direct Veneto è collocato presso l'azienda regionale Veneto Agricoltura e quindi proprio per questo motivo si è specializzato in tutta una serie di tematiche che sono di ordine agricolo, rurale, delle energie rinnovabili, la pesca, le foreste e così via. Si è parlato in questa settimana scorsa di bilancio dell'Unione Europea, perché c'è stata questa conferenza nel quale si è trovato un po' l'accordo. Il bilancio dell'Unione Europea gran parte è occupato dalle risorse che vanno all'agricoltura. Perché l'Unione Europea si occupa di questo e in quale parte un po' ne viene occupata? Allora, ricordiamo innanzitutto una cosa, che la politica agricola europea, o meglio la politica agricola comune, che va sotto il nome, l'acronimo di PAC, politica agricola comunitaria sarebbe, è la prima politica europea, la prima politica di aggregazione dei popoli europei, addirittura risale al 1962, politica che ovviamente nel corso dei decenni ha subito tutta una serie di trasformazioni proprio per stare al passo con l'agricoltura che si evolveva e che cambia ancora in continuazione. Detto questo, va subito specificato che il capitolo agricolo di questo bilancio, tanto atteso bilancio europeo, assorbe una fetta molto importante, perché arriviamo attorno al 40% del bilancio stesso europeo. Per quale motivo così tanti soldi vanno a finire al comparto agricolo? Perché evidentemente l'Unione Europea ritiene che, e tutti non possiamo che condividere questa linea, che senza agricoltura non c'è sicurezza alimentare, non c'è conservazione del territorio, perché agricoltura non significa soltanto produrre derrate alimentari, ma significa anche fare un po' da sentinelle al territorio, quindi il territorio rurale e così via. Per cui l'Unione Europea, per essere non solo autosufficiente, ma anche per esportare negli altri paesi i propri prodotti, deve, come dire, essere sostenuta, altrimenti non, l'agricoltore, se non viene sostenuto da un aiuto europeo, non ha nessuna convenienza, non ha alcun vantaggio rimanere in campagna, e di conseguenza con l'abbandono delle campagne noi possiamo immaginare cosa può succedere con l'abbandono del territorio e così via. Non c'è solo l'agricoltura, ma anche tematiche ambientali, diciamo, sono a cuore dell'Unione Europea, visto che anche molte direttive, come dicevo all'inizio, di fatto recepiscono decisioni o comunque linee guida decise a Bruxelles. Questo anche per creare una politica abbastanza uniforme nei vari stati aderenti all'Unione. Certo. Se noi teniamo conto, e magari facciamo un piccolo passo indietro, il bilancio europeo dei prossimi 7 anni, cioè 2014-2020, ammonta a circa 960 miliardi di euro, che è veramente una bella cifra, certo, che però è poca cosa se noi pensiamo alla percentuale del PIL, arriva all'1% del PIL dei 27 Stati membri. Però complessivamente è una bella cifra. Di questi 960 miliardi di euro, ben 372, quindi vuol dire il 38%, come dicevo prima quasi il 40%, è destinato proprio a questo capitolo, si chiama la rubrica si chiama crescita sostenibile e risorse naturali, ovvero agricoltura, sviluppo rurale, ambiente e così via. Quindi, come appunto si diceva, non solo agricoltura, non solo territorio, ma anche una politica a favore dell'ambiente, a favore delle energie rinnovabili, proprio perché è qui che ricadono le attenzioni più importanti dell'Unione Europea. Se noi pensiamo alla politica ambientale, alla famosa regoletta del 20-20-20, cioè l'agenda entro, 2020, ovvero entro il 2020 ridurre del 20% il consumo di energia, produrre il 20% in più di energia da fonti rinnovabili e ridurre del 20% l'emissione nell'atmosfera di anidride carbonica. Quindi un obiettivo importantissimo che per il momento non è, come dire, non viene seguito anche dalle altre grandi potenze economiche, mi riferisco agli Stati Uniti e così via, però l'Unione Europea ha iniziato e addirittura promettendo di arrivare a percentuali più alte se questi paesi, come dire, tra virgolette inquinatori, produttori sì, ma anche inquinatori, come dicevo prima gli Stati Uniti, si dovessero accodare a questo progetto, a questo grande programma ambientale europeo. Facciamo adesso una breve pausa, tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con la trasmissione del quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di Europa con Renzo Micheletto di Europe Direct. Il 2013 è stato decretato anno europeo del cittadino. Che cosa significa? Cioè, cosa sta facendo l'Europa per promuoversi, per farsi conoscere anche dai propri abitanti? Sì, allora ogni anno la Commissione europea decreta un tema particolare. L'anno scorso era l'anno per il volontariato, quest'anno appunto l'anno per i cittadini. Cos'è l'anno europeo dei cittadini, il 2013? È, come dire, un grande progetto, no? Una grande intenzione, mettiamola così, che consiste in sostanza quella di far conoscere sempre di più e rendere consapevoli i cittadini europei di quelli che sono i loro diritti e le loro responsabilità anche di questo far parte di questa cittadinanza europea. E quindi, come dire, l'obiettivo è quello di permettere ai cittadini di esercitare pienamente i propri diritti, con particolare riferimento, è quello che è poi il nodo centrale, al diritto di circolazione e di soggiorno negli altri paesi degli Stati membri. L'Unione Europea è costituita per il momento da 27 Stati, dal 1 di luglio ci sarà anche l'ingresso della Croazia, quindi saremo in 28, in prospettiva ci saranno anche altri ingressi e quindi tutti i cittadini europei, oltre 500 milioni di abitanti, devono conoscere quelli che sono i loro diritti nel viaggiare, nel soggiornare, nello studiare in altri paesi e così via. Ecco, ricordiamo anche che nel 2014 ci saranno le elezioni europee. E infatti proprio l'obiettivo dell'anno europeo dei cittadini, questo, come dire, sensibilizzare sempre di più i cittadini europei a cos'è l'Europa, a cosa fa per tutti noi l'Unione Europea, e rientra anche questo aspetto, cioè quello di avvicinare un percorso di avvicinamento alle elezioni europee del prossimo anno, proprio per rafforzare sempre di più questa consapevolezza di essere cittadini europei. Ricerca e sviluppo, anche questo è uno dei grossi temi. L'Unione Europea investe, come abbiamo detto, molto su questo, sia per sviluppare la ricerca in tema ambientale, ma per esempio anche sulle nuove tecnologie. Quali sono un po' gli obiettivi di tutti questi investimenti in questo settore? Ricordiamoci che quello che farà l'Unione Europea per arrivare al traguardo del 2020 rientra proprio anche lo sviluppo dell'economia e il fare l'adoperarsi per uscire dall'attuale crisi in atto. E proprio per questo l'abbattimento del tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile tra le donne e così via. Rientra proprio anche tra questi grandi obiettivi quello di potenziare le economie dei diversi Stati membri. E quindi cosa se non più importante può essere se non la ricerca, nel campo della ricerca tecnologica e dello sviluppo tecnologico? Ecco. Anche in questo ambito l'Unione Europea sta spendendo un sacco di soldi attraverso i vari programmi di ricerca e sviluppo tecnologico, proprio per, come dire, per soprattutto in campo ambientale, delle nuove tecnologie, proprio per rendere l'economia europea moderna e in grado di affrontare e in grado di confrontarsi con le economie delle altre potenze economiche mondiali, che non sono soltanto gli Stati Uniti e il Giappone, ma anche le nuove economie che stanno emergendo, non solo quella cinese, ma anche quella indiana, quella del Brasile, certo, che fino all'altro ieri era un paese sottosviluppato, ma che a grandi passi sta venendo fuori e che si sta come dire, potenziando sempre di più. L'Unione Europea dovrà confrontarsi in maniera sempre più forte con queste potenze economiche. L'ultimissima domanda è: come contattarvi? Allora, telefonicamente allo 049 82 93 716 oppure via posta elettronica, basta scrivere Europe Direct, scritto Europe Direct, @venetoagricoltura.org. Voglio ricordare che Europe Direct Veneto è uno dei 50 centri Europe Direct presenti in Italia e uno dei 500 centri, uno dei 500 sportelli presenti nei 27 Stati membri. Grazie. A voi un buon proseguimento a tutti, arrivederci. Passiamo adesso ad alcune notizie. Comincia mercoledì 27 febbraio alle 18 al centro Plip di Mestre un percorso intitolato Discorsi intorno al cibo, guidato da Gigi Danna, esperto e filologo del cibo, e agevolato da David Marchiori. Un viaggio alla scoperta della galassia cibo, scoprendone i valori e le contraddizioni. Il primo tema proposto è Scelgo come mi spendo, filiere, produzioni, stagionalità, come districarsi nella giungla delle produzioni agroalimentari. preparazione e conservazione dei prodotti, prevenzione degli sprechi, valorizzazione degli scarti. Gli incontri di circa 2 ore sono gratuiti e saranno seguiti da una cena a prezzo agevolato per chi ritiene di fermarsi, con assaggio di piatti legati agli argomenti trattati durante la serata. È opportuno prenotare al numero 347-9944-257 oppure presso la pagina Facebook Centrale Plip. È stato firmato un protocollo d'intesa tra il Consiglio regionale del Veneto e l'ARPA, l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale, al fine di attuare un coordinamento operativo per la divulgazione di informazioni meteoclimatiche. L'ARPAV fornirà periodicamente al Consiglio regionale, a costo zero, tutta una serie di dati tecnici di carattere meteo-climatologico di settore e di carattere ambientale, nonché 2 rapporti, l'uno relativo ai cambiamenti climatici nel Veneto e l'altro sulla risorsa idrica nella nostra regione. I dati verranno quindi diffusi ai consiglieri, alle strutture e organismi consiliari e messi a disposizione in edizione digitale sul sito del Consiglio regionale. Giovedì 7 marzo dalle ore 10.30 a Legnaro sarà presentato il quaderno numero 14 della collana Europe Direct dal titolo Qualità, sicurezza e sostenibilità, l'agroalimentare europeo si interroga. L'argomento sarà approfondito dagli autori Edi Del Francesco, Vasco Boatto dell'Università di Padova, l'avvocato Neva Monari, Maria Chiara Ferrarese, Dario Dongo. Interverrà in videoconferenza anche il Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, con il quale verrà fatto il punto sulla riforma della PAC 2014-2020. I lavori saranno coordinati da Luigino Disegna di Veneto Agricoltura, che è stato già nostro ospite in trasmissione. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima e vi ricordiamo che ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, 4 elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.